24 mattino estate con Irene Zerbini. 16 minuti dopo le 7 e carta d'identità alla mano, perché oggi parliamo di età. Buongiorno, benvenuti, non l'età del cittadino qualsiasi, ma di colui che decide di chiedere un mandato popolare, cioè della politica. È un paese, l'Italia, dove rispetto al resto d'Europa e anche del mondo i leader politici sono decisamente più vecchi. Secondo il rapporto LUIS 2008, il 45,2% dei leader italiani, cioè i numeri uno non solo di politica ma anche di professioni, istituzioni, economia, è ultra settantenne. Pensate che in Spagna, nel sistema politico e nel Parlamento, gli ultra settantenni sono il 4,8%, solo per dare un'idea. Ma basti pensare a Barack Obama, è stato eletto a 47 anni, l'inglese Cameron è eletto a 44 anni, Zapatero aveva 44 anni quando ha cominciato a guidare il governo. In genere, insomma, negli altri paesi non solo si comincia prima, ma soprattutto si va a casa a un certo punto. Si termina la carriera politica quando si è intorno ai 50 anni o poco più. E allora oggi vi abbiamo chiesto, questo è il sondaggio di Bianco o Nero, in Italia si fa tanto parlare di limiti d'età e di pensioni, ma avremmo bisogno di un limite d'età anche per la classe politica? Se volete partecipare a questo sondaggio, www.radio24.it, e ne discuteremo poi insieme anche con le vostre telefonate e i vostri sms. Prima però andiamo in Florida, anzi nella nuova Florida, quella italiana, la nuova Florida per i pensionati americani, cioè nelle Marche, dove aspettarci c'è appunto un simpatico statunitense, John Williams Gordon. Buongiorno, welcome on Radio 24, John. Buongiorno. E dunque lei, dottor John Williams Gordon, con la sua scelta ha fatto il giro del mondo, perché lui è un americano. Da dove viene, John? Di Philadelphia. Viene da Philadelphia, ma da parecchi anni vive in Italia e non, come molti potrebbero pensare, per accostamento in Toscana, la meta preferita degli americani fino all'altro ieri, bensì dove si trova in questo momento? Nelle Marche, a Senigallia. A Senigallia, provincia di? Di Ancona. Sembra che proprio questa regione sia in testa alle classifiche degli americani. Ce l'ha raccontato un'autorevole rivista, la ARP, praticamente la rivista dei pensionati statunitensi, che ha 35 milioni e mezzo di abbonati, pensate un po', e ha indicato le Marche come la regione dove andare dopo la pensione per tutta una serie di ragioni. Hanno splendide spiagge, vigneti ridenti, l'arte, l'architettura, alcuni dei migliori piatti di pesce della cucina italiana, perfino le montagne dove praticare sport invernali, ci ha raccontato il periodico. E John, lei che professione svolge? Faccio il chiropratico. E nelle Marche ha trovato diversi clienti, è venuto per lavoro quando venne? Infatti, perché siamo veramente in pochi qui, se ci pensi che qui saremo nelle Marche una decina, e nel solo stato di California sono più di 13.000, quindi... Una decina, cioè lei li ha contati, avete una sorta, immagino, di associazione degli americani all'estero e dei chiropratici in particolare? No, ma abbiamo l'Associazione Italiana Chiropratici, di cui io sono presidente da 6 anni. Esattamente cosa fa un chiropratico? Ci interveniamo con problemi di salute, soprattutto siamo conosciuti per problemi muscoloscheletrici, anche se non è l'unica cosa che facciamo, ma vengono a cercarci per problemi di schiena, di cervicale. Di schiena, di dolore, insomma. Esatto. È qualcosa che è molto diffuso in Nord America. Lei si è trasferito a Senigallia, John, per caso o le era stato detto della situazione particolarmente felice di questa regione? No, io stavo lavorando un pochino più a sud e sono venuti per lavoro diverse volte in regione qui in Ancona, e più volte che sono venuti più mi è piaciuto e ho deciso di trasferirmi qua. Questo è già più di 20 anni fa, 28 anni fa veramente. E ora il New York Times ha scoperto questo paradiso, grazie anche alla scelta di un testimonial d'eccezione per lanciare questa regione agli americani. Sempre caro, mi fu questo cuore. Si ebbe che da tante parti dell'ultimo orizzonte. Ma sedendo temorando da quella determinati spazi di là da spazi di là da quella no e sovrumani silenzi e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo il cor non si spaura. È difficile anche per Dustin Hoffman recitare l'infinito senza prendersi delle bacchettate, e per lei invece ormai non ci sono segreti anche per la lingua italiana. John Williams, questo spot ha naturalmente conquistato la simpatia degli Stati Uniti e dei suoi connazionali, perché se uno ha un testimonial così, su un posto, un testimonial così, deve essere un posto molto trendy. Quando lei torna in Florida o quando parla con i suoi connazionali, conoscono le marche? Cosa conoscono esattamente? Purtroppo quando parla delle marche non lo conoscono in molti. Infatti sarebbe per la regione dovrebbe fare un po' più di pubblicità negli Stati Uniti, perché è un tipo di regione che sono sicuro che attirerebbero molte americane. Beh, e delle Marche si conosce il mare, la montagna, gli itinerari artistici, Urbino, Raffaello, e si conoscono poi moltissime città d'arte, ma la sua classifica, i suoi itinerari preferiti, John, quali sono? Cos'è che l'ha conquistata? No, io penso che la varietà di scelte di vita, perché qui lungo la costa c'è il mare, c'è buon pesce, poi a 45 minuti di macchina ci sono anche le montagne con le sport invernale, c'è un po' di tutto, c'è arte, c'è cultura. E John, dovendo indicarci un posto così sconosciuto o non così pubblicizzato sulle guide turistiche, dovendo indicarlo soprattutto agli americani, dove li manderebbe per 3 giorni? Veramente città per me più indicativa delle Marche sarebbe Ascoli Piceno. Ascoli Piceno e non la solita Urbino ben più nota. Perché Ascoli Piceno? Ascoli Piceno è una città che già ha una storia di più di 2000 anni, è abbastanza grande con 60.000 abitanti e è tutto in stile romano, è bellissima e pieno di storie. E Piazza del Popolo. Grazie John Williams Gordon, come avete sentito la sua storia ha fatto il giro del mondo anche grazie a articoli del New York Times. E nelle Marche abbiamo scomodato anche un gestore di agriturismo, una country house veramente, già col nome in inglese, si chiama Cittadella, si trova a Monte Monaco in provincia appunto di Ascoli Piceno. Ha sentito, ha scelto proprio la sua provincia. Silvio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Fa molto piacere sentirsi svegliare con queste notizie, con questi apprezzamenti sulla nostra regione. Ma voi clienti americani ne avete già? Noi abbiamo qualche cliente americano, una crescita costante che ci fa ben sperare per il futuro. E fa anche sorridere questa corsa dell'Italia a accalappiarsi il turismo americano, perché è un paese che parallelamente discute costantemente del problema creato dalla presenza di stranieri. Questi sono stranieri che verranno per vivere, almeno secondo le indicazioni del New York Times. Non stiamo parlando di turisti, stiamo parlando di pensionati che pensano di trasferirsi nella regione Marche. Cosa le chiedono di solito? Cosa apprezzano? Che caratteristiche ha questa clientela? Questa clientela è una clientela che un po' nelle abitudini, nel mito americano, ricerca quelle radici storiche che in qualche modo questo modo di vivere è stato tramandato dai primi emigranti, dalle persone poi che si sono affermate in America. Quindi sono alla ricerca di una vita fai da te, non una vita ispirata al marketing spinto, ecco, un po'. Cioè meno consumismo, meno tecnologia. Non c'è un rifiuto della tecnologia, ma della tecnologia che aiuta a riscoprire determinati valori, ecco, che sono comunque latenti nei ricordi tramandati. Un po' le mollezze della vita mediterranea, è un po' questo che si cerca. Si cercano un po' le radici, ecco, qui le Marche non è un caso, è la regione, parlo al plurale perché è una regione coniugata al plurale, sì. Ma è la regione più longeva d'Italia, io abito in questo territorio dove abbiamo delle testimonianze, delle nonnine centenarie, addirittura qualcuna con un primato di longevità a livello europeo. È una zona dove convergono diversi parchi naturali nazionali, dove è la regione con più alta produzione di agricola a livello biologico, ecco, ci sono. E anche questa longevità è stata attribuita alle qualità del cibo locale. Quali sono i punti d'eccellenza? Lei che tra l'altro cura un agriturismo. Ecco, le Marche non hanno, al di là di qualche eccellenza enologica, dei prodotti che è facile reperire sui supermercati o sulla grande distribuzione. È una distribuzione diffusa che uno deve scoprire, cercare un po' qui sul territorio per esserne fruitori. C'è un po' una rete della comunicazione della porta accanto, chiunque sa indirizzarti verso un produttore di carni, di marmellate o di ortaggi fatti alla maniera antica, come si faceva una volta, con grossa soddisfazione nel fare questo, perché non è un retaggio dell'arcaico, ma è una riscoperta, la voglia di riprodurre prodotti di qualità offerti in piccole nicchie diffuse sul territorio. Beh, decisamente interessante, una qualità della vita che sembra difficilmente raggiungibile. E rispetto alla Toscana è stato segnalato più volte, in generale, poi chiaramente ci saranno le eccezioni, e in una e nell'altra regione costa molto meno, l'ha sottolineato anche il New York Times. Beh, intanto grazie a Silvio Antoniozzi. Grazie a voi. Che è il gestore, avete sentito, di un centro agrituristico e country house Cittadella a Monte Monaco in provincia di Ascoli Piceno. Lasciamo le Marche per tornare a pieno nella nostra attualità, lo faremo tra pochissimo con la rassegna stampa. Vi ricordo ancora una volta il sondaggio della mattinata, riguarda l'innovazione, riguarda soprattutto la circolazione di idee nuove e l'età dei nostri politici. Avremmo bisogno di un limite d'età anche per la classe politica? Votate su www.radio24.it. Ancora una buona giornata da Irene Zerbini, soprattutto, non solo, a te Gigi Donelli. Buongiorno Irene, un saluto agli ascoltatori, buongiorno. Buongiorno, caporedattore di Radio 24, con il compito oggi di guidarci tra i quotidiani. In primo piano? Beh, in primo piano direi sicuramente l'Iraq, quindi l'addio, la partenza che naturalmente va letta e declinata, perché vedremo che appunto è un modo molto diverso di partire da quello, dal termine che utilizziamo, diciamo, nella vita normale. È un partire con molte permanenze. Con molti strascichi, insomma, un termine che sintetizza ma non racconta tutto, e dunque seguiremo i dettagli nella tua rassegna stampa. In primo piano. Ancora buongiorno da Gigi Donelli, sono le 7:32 minuti, dunque la partenza. Iraq addio, il grande rientro delle truppe USA dopo 7 anni, è il titolino sopra, una bellissima fotografia che rappresenta un Galaxy, un aereo da trasporto americano stracolmo di soldati. Quindi guerra finita con 13 giorni d'anticipo, gli USA hanno ritirato l'ultima brigata da combattimento. Restano 56.000 soldati con compiti di appoggio appoggio e di addestramento. Questo per il Sole 24 Ore stamattina. Il titolo centrale è: l'Europa cresce, l'America no. La Germania migliora al 3% la stima del PIL 2010, mentre negli Stati Uniti salgono disoccupati e deficit federale. Naturalmente la politica: Bossi alle urne in dicembre, se Fini non si dimette. E poi ancora una segnalazione dal Sole 24 Ore: poche espulsioni e detenzioni lunghe, i centri CE al limite, l'immigrazione clandestina, dunque un tema che naturalmente di portata generale prende il là in queste giornate dalle iniziative del presidente francese Sarkozy, ma naturalmente è un tema che riguarda tutti i paesi dell'Europa, soprattutto per Repubblica. Americani al via dall'Iraq, ora la guerra è finita. Ora la guerra è finita, il virgolettato del presidente degli Stati Uniti, ma naturalmente molteplici i commenti e i dubbi intorno a ciò che accadrà. Basta citare quello di Bernardo Valli, che dice: tra le macerie manca lo Stato e manca persino il governo, che nonostante le elezioni di marzo appunto non esiste ancora. Insomma, molte le preoccupazioni. Per quanto riguarda l'Italia e la politica, Repubblica, PDL, Finiani: nessuna tregua, Bossi insiste, voto a dicembre, fare futuro, dice, il berlusconismo è killeraggio. Quindi l'organizzazione che creata dal presidente della Camera Fini oggi, vicina al presidente della Camera Fini oggi, il vertice dal premier e naturalmente la politica dunque rimane sul fronte della guerra fredda, come è già stata definita da più fonti in questi giorni. Per il Corriere della Sera, peraltro, il fondo è affidato a Claudio Magris, che direi piuttosto esplicitamente lo titola: la politica dell'insulto, se la volgarità non scandalizza più. Questo è uno degli elementi che sicuramente emerge, uno dei fattori come dire più vistosi anche di questi tempi e di questi tempi anche della politica. Per quanto riguarda i titoli veri e propri, Bossi si corre verso le urne, la scelta del Corriere della Sera. Naturalmente il ritiro dall'Iraq, dice, per l'esercito americano, dopo 7 anni la guerra in Iraq è finita. Ecco, forse questo tra le sfumature che si utilizzano e a cui ho accennato anch'io pochi momenti fa con Irene Zerbini è per l'esercito americano, per le truppe combattenti non esiste più, esisterà sicuramente, esiste in altri modi, esiste negli interessi, esiste non ultimo nel fatto che a sostituire la presenza militare, che ribadiamo per ora forte ancora di altri 56.000 uomini, è prevista la presenza di 7.000 contractors. Quindi 7.000 contractors altro non sono che uomini deputati alla difesa, figure anche molto legate a questa guerra, in cui sono emerse quelle di quelli che una volta avremmo chiamato mercenari, diciamo nuovi mercenari professionisti della sicurezza, molto legati anche ai tempi della presidenza Bush, alla figura di Dick Cheney. Ma insomma, questa guerra che finisce e naturalmente viene affiancato da una riflessione sulla fretta di Obama. La fretta di Obama può dare una scossa, infatti il commento firmato da Franco Venturini, che dice: il ritiro anticipato dell'ultima brigata combattente, oltre che a considerazioni di sicurezza operativa, è probabilmente dovuta al desiderio di Obama di poter finalmente esibire un impegno mantenuto in politica estera. Insomma, esibire un impegno, questa è una delle ragioni, è una delle esigenze della politica, e naturalmente questo riguarda anche il presidente degli Stati Uniti. A centropagina abbiamo citato la vicenda, o meglio il grande tema dell'immigrazione. Qui in realtà siamo di fronte a dei movimenti di popolazione storici, movimenti interni all'UE. Sarkozy espelle i Rom e respinge le critiche. I primi 70 Rom espulsi dalla Francia sono arrivati in Romania, altri 132 li seguiranno oggi. Critica la scelta di Sarkozy dall'UE, ONU e Vaticano. Replica il ministro, dice, Parigi non ha lezioni da ricevere. In taglio basso una fabbrica importante è la Foxconn, la fabbrica che assume 400.000 operai in Cina, naturalmente. La più grande catena di montaggio della storia, produce, pensate, iPad, iPhone, quindi anche questo è nella storia e nell'attualità della società in cui viviamo. È una fabbrica che ricorderete probabilmente nelle ultime settimane tra le sue, diciamo, tra i richiami giornalistici anche legati ai suicidi all'interno proprio dei luoghi di lavoro. Bene, Foxconn, il gigante con i suoi 900.000 dipendenti cinesi, è il più grande produttore tecnologico al mondo, ha annunciato di voler assumere fino a 400.000 nuovi salariati per mantenere la produzione di iPad e iPhone riducendo gli straordinari. Infatti ci sono voluti 11 suicidi in soli 8 mesi per prendere questa decisione. Ancora, Iraq, la guerra è finita, questa la stampa di Torino, feste alla Foxconn per fermare i suicidi, quindi ancora la grande fabbrica cinese, ma anche una vicenda a cui abbiamo accennato ieri, che ieri era ripresa dalla prima pagina del Sole 24 Ore, in particolare con un taglio, diciamo, finanziario ed economico, è quella dei fertilizzanti, il potassio, quindi l'agrobusiness. Il potassio fa gola alle banche europee, grandi manovre dal Canada alla Russia, tutto questo naturalmente sollecitato dagli interessi di una grande società australiana, appunto, per il mercato delle materie prime legate ai fertilizzanti. Ci torneremo tra un momento. Per il giornale è, diciamo, tutta italiana, tutta interna la prima pagina, e mi scappa naturalmente perché ormai andiamo avanti così da più di due settimane. Indagini sulle case della Tugliani. PM di Perugia aprono un fascicolo sull'impero della famiglia acquisita del presidente della Camera. La procura vuole fare anche luce sui beni in possesso di Elisabetta e rivendicati dal suo ex Gaucci. A centropagina invece una grande fotografia di Patrizia D'Addario, definita vittima del suo lavoro. La triste fine, ovviamente ironico il titolo, la triste fine del mito della sinistra. Anche nella prima pagina del quotidiano milanese il tema Iraq, con un fondo di Livio Caputo sul rischio di disgregazione, che poi cercheremo di leggere. Il messaggero, a fondo di Bossi, voto a dicembre, quindi la politica ma anche il rapporto con Confartigianato in chiave Lazio, piccole imprese, la burocrazia costa oltre 1.000 euro. E il quotidiano di Roma dice il costo non è equamente distribuito tra nord e sud, sostanzialmente questo per dire si paga di più nel centro, nel Lazio in particolare, nella graduatoria italiana. Roma si trova al 102° posto dei costi tra le 10 province in cui la burocrazia pesa di più. Insomma, scrive il quotidiano, Roma annega sotto montagne di carta, e fare il piccolo imprenditore è veramente duro. Go home per il Manifesto, una grande fotografia come di consueto, metafotografia, visto che è un soldato americano che con la sua piccola digitale fotografa un gruppo di commilitoni, si presume una foto di partenza. Obama decide di anticipare il ritiro delle truppe, finisce virtualmente la carneficina della guerra voluta da Bush, che con l'inganno delle armi di distruzione di massa e il sostegno dei governi occidentali ha rovesciato Saddam Hussein e alimentato il terrore di Al-Qaeda. Questa la linea del Manifesto, e il commento affidato a Giuliana Sgrena, lo ricorderete, giornalista peraltro rapita in Iraq e insomma, esperta di molte missioni in quel territorio, che dice missione incompiuta. Quindi Iraqi Freedom, scrive Giuliana Sgrena, termina senza che l'Iraq abbia ritrovato la sua libertà, proprio come le truppe occidentali avevano concluso la missione Restore Hope fuggendo da Mogadiscio senza che la Somalia avesse ritrovato la speranza. La Padania, fini lasci o si vota a dicembre. Bossi conferma la sua analisi, le missioni del presidente della Camera sono l'unico modo per disinnescare la corsa verso le elezioni anticipate. Sulla prima della Padania anche oggi ampio spazio alle iniziative, alle scelte del presidente Sarkozy. Partiti i primi 93 rom espulsi dalla Francia, Sarkozy contro le critiche di Romania e UE. Ieri avevamo segnalato, soprattutto da Padania e Libero, appunto una precisa, esplicita difesa delle scelte in un dibattito che abbiamo definito complesso, sicuramente come dire, presente più o meno in superficie nella nostra attualità. Il quotidiano, il Fatto Quotidiano, i finiani di Fare Futuro dicono che Berlusconi è davvero il caimano degli editti e dei ricatti e si vergognano di non averlo denunciato prima. Questo è il titolone del quotidiano oggi. Per chi da anni ha detto le stesse cose e ne ha subito le conseguenze, Enzo Biagi per tutto, è una giornata importante. Ma quando il PD userà le stesse parole? Questo il titolo. Ancora da Avvenire. Avvenire, come spesso accade, si interessa, o quantomeno dedica le sue aperture a fatti della cronaca internazionale di grande portata. Quindi naturalmente truppe USA via dall'Iraq, ma anche ancora una volta, devo dire, in questi giorni, distinguendosi un po' dalla maggior parte delle testate, l'attenzione alla vicenda, alla tragedia pakistana. Pakistan, fango e colera, sono quasi 5 milioni di persone senza casa. Questo il titoli, e anche qui il rimpatrio dei Rom divide la Francia, ecco, mentre Sarkozy conferma la linea dura, il rimpatrio divide la Francia. L'Unità, il nervo scoperto. L'Unità ieri vi ho raccontato, apriva sui rapporti Gheddafi-Berlusconi, rapporti tra Premier e Gheddafi, il nervo scoperto. Ghedini attacca l'Unità, leggiamo dalla prima pagina del quotidiano. L'onorevole avvocato, nessun business TV tra i due. E Granata dice, il problema resta il conflitto di interessi. La visita, tutto questo alla vigilia ormai della visita romana del leader libico, prevista per il 30 di questo mese. Questo dunque il nervo scoperto, una grande fotografia in cui un solitario Gheddafi attende, quasi sull'attente. Ultime segnalazioni dalle prime pagine. Bossi vuole già Natale i voti del PD in regalo. Questo è il titolo di Europa, il quotidiano del Partito Democratico. Il senatore attacca fine, reclama elezioni, o si dimette o non si va avanti. E ancora invece da Libero, Fini, l'inchiesta si ingrossa, parenti, amici e guai. Gianfranco cerca di insabbiare lo scandalo della casa di Monte Carlo, ma i PM indagano sul patrimonio della Tulliani e sentiranno Urso sul suo attico da 3 milioni di euro. E a centropagina un interrogativo: dove è finita la sinistra? Hanno rapito Bersani, scrive oggi Libero. L'ultimo segnale di vita il 6 agosto, poi è successo di tutto, ma il PD non è più pervenuto. Naturalmente anche l'Iraq. Bene, siamo al Foglio. Vi segnalo un altro tema importante proprio in queste ore, l'avrete anche sentito nei nostri GR, ci sono importanti e preoccupanti segnali che arrivano in queste ore dal Sudafrica, sintetizzato dall'articolo del Foglio che dice: passate le notti mondiali, il Sudafrica si risveglia più arrabbiato di prima. Cosa sta accadendo? Più di un milione di dipendenti pubblici in sciopero a oltranza, governo sotto assedio, inflazione al 4,2%. Sentiamo ora come vanno le cose sulle strade italiane. In primo piano. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, 7:46 minuti. Naturalmente l'Iraq in prima pagina, in Italia, nel mondo, moltissimo materiale ovviamente. Io per ragioni di sintesi vi segnalerei due contributi. Da una parte l'intervista della Stampa a Robert Bauer. Robert Bauer è di fatto un uomo della CIA, lo è stato per 20 anni, è stato in India, in Libano, in Tagikistan e Iraq. Chi ama anche magari solo in veste cinematografica la materia lo può associare a Siriana, quindi film di complotti e di azioni appunto coperte della CIA. Allora, su quale basi prevede lo scoppio della guerra civile? Salto già all'interno dell'intervista. Bauer dice: senza più le truppe americane sul terreno sono due i focolai da cui una guerra civile minaccia di iniziare in tempi non troppo lunghi. A nord, sunniti curdi, a sud, per l'egemonia politica della maggioranza sciite. Allora mi concentro su questo elemento nella domanda successiva. Chi all'interno della grande famiglia, diciamo appunto lasciando fuori in questa fase i curdi del nord della grande famiglia sunnita è suscettibile di scatenare queste tensioni. Dice: da una parte ci sono i laici guidati dall'ex premier Allawi, dall'altra i religiosi. I leader dei due fronti sono all'opposto su tutto, ma in comune hanno il fatto di dover guardare soprattutto a Teheran, dove non a caso ogni capo partito si è recato dopo le ultime elezioni, le elezioni a cui ho accennato prima e che finora non hanno portato ad un governo. La perdurante assenza di un governo, appunto, a Baghdad svela le profonde divisioni esistenti tra i due campi sciiti, che potrebbero portare a una faida armata, il cui arbitro o regista potrebbe essere solamente l'Iran, non certo gli Stati Uniti. Questo, lo ripeto, è il punto di vista di Robert Baer, appunto ufficiale per 20 anni della CIA. C'è uno scenario per scongiurare questi conflitti etnici? Chiede Maurizio Molinari nella sua intervista. Ce n'è uno solo: l'Iraq ha bisogno di un uomo forte per restare unito, come avvenuto nel passato. Insomma, sembra un'evocazione di un ritorno al futuro quasi, ma soprattutto l'impressionante, diciamo, esplicita dichiarazione della fragilità della democrazia in paesi come appunto l'Iraq, proprio come strumento di gestione anche delle crisi. Ma insomma, altra segnalazione, ve l'avevo anticipata dalla prima del giornale: Obama si ritira, l'Iraq rischia di disgregarsi. Il commento di Livio Caputo dice, e qui mi rifaccio all'idea appunto della parola ritiro, che ripeto va sempre presa con cognizione. La stessa amministrazione, scrive Livio Caputo, è talmente preoccupata per le possibili conseguenze delle sue decisioni che ha deciso di affidare al Dipartimento di Stato il compito di riempire il vuoto lasciato dalle truppe con un programma civile, ed è tra virgolette, del costo di 2,3 miliardi di dollari, articolato su vari punti: invio in Iraq innanzituto di 7-8 mila guardie private, che a partire dall'anno 21 dovranno occuparsi della preparazione della polizia, della sicurezza del personale americano e di fornire supporto agli iracheni in caso di disordine. Rafforzamento del personale dell'ambasciata fino a 2.400 persone, quindi un'armata più che un'ambasciata. Apertura di due sedi diplomatiche avanzate a Kirkuk e a Mosul. Kirkuk, Mosul, due città, come dire, oltre a essere nel nord, sulla via del nord e in territorio curdo, di fatto significano pozzi petroliferi del nord, e a Mosul dunque con lo specifico compito di impedire la degenerazione del conflitto e i curdi, monitoraggio dei rapporti dello stesso governo con gli stati vicini, naturalmente le relazioni dell'Iraq con l'Iran ma anche con la Turchia, per scongiurare invasioni di campo che potrebbero compromettere irrimediabilmente gli interessi americani. Prima di passare ad altro tema, voglio comunque ricordarvi in breve: i nostri soldati restano in 80, lo troviamo nella stessa pagina, per aiutare le reclute, quindi una piccola presenza militare italiana in Iraq. E accanto un trafiletto che riguarda i nuovi scenari. La notizia è: Karzai chiede aiuto a Mosca e la Russia torna a Kabul. Siamo nel 2010, ricordate, 1985, l'inizio della fine dell'Unione Sovietica, il ritiro e così via. Insomma, in questa fase complessa di transizione, di fine di conflitti, il presidente afghano Karzai ha chiesto al presidente Dmitry Medvedev di intervenire per aiutare l'Afghanistan. 20 anni dalla fine del disastroso conflitto che portò alla morte di 15.000 militari sovietici, la Russia, che secondo gli analisti sta cercando di aumentare la propria influenza in Afghanistan, cosa assolutamente ragionevole, ha ospitato un incontro con Karzai, il presidente pakistano. Mosca sta negoziando per rifornire con oltre 140 ex installazioni dell'era sovietica, stazioni idroelettriche, irrigazione e così via. Questi accordi potrebbero valere oltre $1 miliardo. Eccoci, restando diciamo nell'ambito di notizie di portata mondiale, voglio ritornare sulla notizia del potassio, per così dire. Il potassio fa gola alle banche europee, vi ho detto, è il richiamo della stampa di Torino in prima pagina sulla corsa ai fertilizzanti. Ma a pagina 13 del Sole oggi ho trovato una spiegazione, una sorta di guida alla comprensione realizzata da Marco Magrini, che ci dice: senza NPK che mondo sarebbe, si interroga. Allora, NPK è la sigla, l'acronimo che troviamo o che possiamo trovare anche nei negozi di giardinaggio, ma in realtà sono ci richiama le tavole periodiche, quindi azoto, N, potassio, K, P, fosforo. NPK vuol dire, quindi, in estrema sintesi, fertilizzanti. La Potash Corp, l'ultimo oggetto del desiderio di un mercato azionario depresso eppure capace di regalarci la tradizionale scalata estiva, piace alla BHP Billiton, quindi australiana. Magari, come sospettano la JP Morgan, piace anche ai cinesi, che potrebbero azzardare un rilancio. Insomma, l'azienda canadese è sotto il mirino di quella australiana. Nel frattempo il fondo pensione norvegese però ha rinunciato alla sua quota. L'ha fatto perché l'azienda canadese continua a importare fosforo e fosfati dal Marocco, il quale se li procura in un Sahara occidentale illegalmente occupato. Insomma, l'azoto, N, il fosforo, P, il potassio, K, rispettivamente settimo, quindicesimo, diciannovesimo elemento della tavola periodica, sono alla base dell'agricoltura. Senza questo trio di atomi variamente combinati, la produzione alimentare intensiva che conosciamo oggi sarebbe semplicemente un'utopia. Questo scrive Marco Magrini. Per ragione di tempo mi fermo qui, ma vi invito ad approfondirlo. Abbiamo almeno qualche altro spunto su cui vorrei tornare, uno dei quali è sicuramente il dossier immigrazione, il dossier anche gestione della complessità dell'immigrazione. A pagina 14 del Sole oggi un approfondimento di Leonardo Barberi e Francesca Padula. Si riapre il dossier immigrati, costa oltre 200.000 euro al giorno la gestione degli irregolari nei centri di espulsione. Il Viminale ora punta alla creazione di una struttura per ogni regione, ma è braccio di ferro con i governatori sui nuovi CIE che hanno sostituito i CPT. Costa ogni giorno 200.000 euro. Oggi, come ad agosto 2009, i centri per gli immigrati sono in fermento. Dall'inizio del mese decine di stranieri irregolari incappati in un controllo in un'attesa di espulsione sono evasi o hanno tentato di farlo dai centri di Brindisi, di Gradisca di Sonzo, di Via Corelli a Milano e di Cagliari. Sono 13 i centri di espulsione e identificazione che in tutta Italia sono in grado di ospitare complessivamente 1.800 immigrati. Alcuni sono tornati sotto i riflettori per le proteste. Lo stesso presidente del Consiglio Silvio Berlusconi poco più di un anno fa li ha definiti molto simili a campi di concentramento. Le associazioni di solidarietà per i migranti protestano perché soprattutto nei CIE mancherebbero assistenza, informazioni, le stanze sono sovraffollate, gli ambienti degradati. Questo è una parte naturalmente dell'inchiesta, l'approfondimento che vi ricordo trovate sulle pagine del Sole 24 Ore oggi in edicola. Un istante ancora solo per segnalarvi un altro dossier che invece ci viene proposto da Repubblica. Tangenti, truffe, nessun lavoro, la formazione a una fabbrica di disoccupati. Richiamo è dalla prima, vi rimanda alle pagine 24 e 25. Ci sono 2,3 milioni di persone in cerca di un posto, un mercato enorme per i professionisti dei corsi. Gli unici a godere dei fondi stanziati sono gli organizzatori e negli ultimi anni i casi di raggiro si sono quintuplicati. Tangenti, truffi, poco lavoro, la formazione è una fabbrica di precari e di disoccupati cronici. E su questa notizia vi saluto e vi do naturalmente appuntamento alla rassegna stampa di domani e di domenica. Beh, è decisamente consistente, massiccio l'ammontare di notizie che oggi ci hai illustrato o suggerito. Sembra un po' terminato l'andazzo estivo dei giornali, si torna a dossier, inchieste, ne hai segnalate molte oggi. Sì, direi che c'è un ritorno alla sostanza oggi. E ci fa molto piacere. Noi ti seguiremo domani da casa e poi ritorneremo in studio per la rassegna stampa lunedì. Nel corso di Bianco Nero oggi parleremo di una delle tragedie dell'Italia, l'immobilismo politico con le sue classi dirigenti. Al più cambiano le sigle, mai le facce. Qualcuno ha detto è il fallimento della Seconda Repubblica, che nei primi anni 90 aveva allevato la speranza di un ricambio generazionale. E come siamo messi ora che gli anni 90 ce li siamo lasciati abbondantemente alle spalle? Secondo il rapporto LUISS 2008, il 60% della classe politica italiana ha più di 70 anni, mentre per esempio in Spagna lo stesso dato si arresta al 4,3%. È l'oggetto del nostro sondaggio. In Spagna Aznar e Zapatero avevano entrambi 40 anni quando ottennero le chiavi del governo. Il primo ha lasciato la politica dopo una sconfitta elettorale, come Tony Blair, Michael Gorbachev, Al Gore, intorno ai 50 anni. Voi come la pensate? Servirebbe un limite d'età anche per la nostra classe politica? www.radio24.it alle 8.30. Prima però l'appuntamento con i corrispondenti stranieri. Oggi incontreremo il corrispondente di Le Monde. 24 mattino estate con Irene Zerbini. Ben ritrovati per andare a incontrare loro, quelli che ci osservano e ci raccontano. Anche oggi non ci spostiamo di molto, nel senso che andiamo in un paese confinante, in uno dei giornali più prestigiosi e più seguiti del mondo, per vedere come viene raccontata l'Italia su Le Monde. Grazie anche al nostro ospite, si chiama Philippe Ridé. Buongiorno Philippe. Buongiorno. Da quanti anni lavori in Italia e la racconti? Sto per cominciare il mio terzo anno qui a Roma, quindi sono arrivato due anni fa, in agosto, in pieno agosto, ho cominciato da lavorare, mi ricordo bene, era il 15 agosto, quindi penso che dovevo essere il solo a lavorare a Roma un 15 agosto. Eri sorpreso da novello corrispondente dall'Italia, sorpresa? No, sorpreso no, perché sì, un po' sorpreso, ma pensavo a quell'epoca di capire abbastanza bene l'Italia, perché è un paese che amo moltissimo, in cui vengo da 35 anni, mi ricordo il mio primo viaggio a Roma negli anni 65, penso avevo appena 20 anni, e poi ho sposato un'italiana un po' più tardi, e quindi ho un legame abbastanza forte e intimo con questo paese, e pensavo conoscerlo abbastanza bene. E quindi Le Monde manda a Roma per raccontare l'Italia ai francesi e tu arrivi convinto, insomma, di andare in un terreno noto, di giocare in casa quasi, in mezzo a casa. In questi tre anni invece hai avuto occasione di stupirti? Sì, le occasioni di stupirmi sono state abbastanza spesse, perché c'è una realtà italiana che io non conoscevo bene, perché visto dalla Francia, l'Italia è un paese qualunque, come la Francia, come la Germania, come l'Inghilterra, e poi quando tu vivi qui per sei mesi tu rendi conto che quest'Italia è un paese a pezzi, che non si può raccontare l'Italia solo vivendo a Roma, per esempio. Penso che un corrispondente straniero che vuole raccontare la Francia può farlo anche da Parigi, perché Parigi è come un grande motore dove tutti i fili arrivano e ripartono. Roma non è la stessa cosa, Roma è una città d'Italia, ma non è la più importante, non è una capitale per caso. E se qualcuno vuole raccontare bene l'Italia ha bisogno di girare dal nord al sud, dall'est all'ovest, e di essere sempre in giro, perché questo paese non esiste l'Italia, ci sono Italie al plurale, ma l'Italia da solo non esiste, non è come la Francia, diciamo, dove c'è un grande centro come altre realtà europee e non solo, in cui la capitale è decisamente, anche dal punto di vista dell'importanza dell'innovazione, sempre in prima linea. Ora tu hai detto, hai usato un'espressione, hai detto è un'Italia a pezzi, intendevi dire è un'Italia Ruth, un'Italia in crisi o un'Italia che ha tanti tasselli di un mosaico? Cosa intendevi dire quando hai usato quell'espressione? Intendo dire, penso piuttosto a mosaica, quando dice Italia a pezzi non è qualcosa di, non è una critica, penso che la realtà che ho scoperto è quella che quest'Italia non è un paese unico, non è un paese unito. Per esempio in Francia non è possibile di fare tutta la sua vita nella stessa città, di nascere di vivere e di morire nella stessa città. A un certo momento tutti i ragazzi di Francia devono per forza andare a Parigi per fare la loro professione, eccetera, eccetera. Beh, in Italia qualcuno che è nato a Bologna può vivere, fare gli studi a Bologna, lavorare a Bologna e poi morire a Bologna. E questo è qualcosa che i francesi non sanno bene, non sanno a quel punto questo paese. È un paese che ha saputo resistere a una forma di unità e anche di imperialismo del centro rispetto ai confini, diciamo. Spesso sentiamo l'espressione un paese che non ha trovato la sua identità 150 anni dopo la nascita. Questo, invece tu usi delle espressioni positive. È un paese che quasi ha saputo salvare la sua pluralità. Sì, sì, è questo che mi piace in Italia. Allora, ci sono due risposte, una che è una risposta, una riflessione positiva. Penso che l'identità di tutti questi paesi è una garanzia rispetto alla mondializzazione, rispetto all'uniformizzazione della diciamo come le cose andano in Europa. Un'altra riflessione che può essere più negativa che questo spirito di campanile, che può essere una difficoltà per un paese per accedere a una forma di sviluppo con grandi opere pubbliche, eccetera, eccetera. Anche nel lato negativo penso che tutta questa accatamento all'identità del paese e diciamo che può anche essere la matrice delle idee della Lega Nord, per esempio, che è molto attaccato a questo tema dell'identità e del rapporto col territorio, tu dici, quindi c'è l'aspetto positivo di resistenza alla globalizzazione, come l'hai definito tu, quindi di identità forte e non facilmente omologabile, e poi c'è l'aspetto negativo invece che può sviluppare avversioni verso ciò che viene da fuori. Sì, ne hai capito bene, l'ha detto molto meglio di me. No, è interessante la tua riflessione. Mi chiedevo, scusa la malignità, se questa tua lettura così benevola dell'Italia e dei suoi problemi fosse quella che poi salvi anche negli articoli, quando invece che parlare a una radio nazionale italiana parli ai francesi. Molto preciso, con molto, non so come si dice in italiano, con molto nuance, con molto Con molte sfumature, sì, e questo cerco di farlo. È molto difficile di fare degli articoli brevi sull'Italia, perché sì. Tu vuoi fare un articolo sull'Italia passando solo da Roma, non funziona. Tu devi avere sempre in mente che le cose non sono le stesse a Milano o in Puglia. Devi aprire mille parentesi e spiegare ai francesi che ti leggono. Roma non è il paradigma dell'Italia, è questo che vuol dire, che non c'è un paradigma che può dare una visione globalizzante dell'Italia, cioè, e per questo che è molto insieme difficile e appassionante la vita del corrispondente di Le Monde. Philippe Ridet, corrispondente di Le Monde, il tuo giornale vende circa 300.000 copie al giorno e poi naturalmente gli articoli vengono letti anche attraverso il sito internet. Cosa ti scrivono i lettori francesi rispetto agli argomenti trattati? Ho una lettrice abbastanza fedele che mi scrivo degli insulti ogni volta che scrivo la parola Berlusconi, perché penso che è una berlusconiana pazzesca. E poi ci sono altri molto interessanti che mi fanno dei complimenti anche su questo, perché... non voglio darmi dei fiori, non sono fishing for compliments. But... Non vuoi incensarti da solo, però? No. Non essere umile. Lettori che sono abbastanza contenti di avere questa visione dell'Italia con delle sfumature, non cercando di dare sempre la colpa o a Berlusconi o alla Chiesa o eccetera. No, non sono alla ricerca di un bouc émissaire. Io cerco di parlare dell'Italia attraverso gli italiani. Diciamo. E un po' fuori dai luoghi comuni, tu dici, sì, perché, dai soliti cliché che vendono benissimo sull'Italia, e cerchi di dare una visione un po' più complessa, che non vuol dire assolutoria necessariamente, ma lo fai parlando con gli italiani. Infatti io non ho letto alcuni dei tuoi articoli, per esempio, dicevi? Sì, beh, per esempio ho scritto qualcosa in cui credo, per forza, perché l'ho scritto, perché i lettori francesi sono come tutti gli altri, c'è il grande mistero Berlusconi, e perché questo uomo governa l'Italia da 15 anni, e poi io ho scritto che l'Italia non aveva bisogno di politologi per spiegare i Berlusconi, ma piuttosto di etnologi per spiegare gli italiani, perché l'hanno votato 3 volte, e che il grande mistero non è Berlusconi, sono gli italiani stessi. E la grande differenza secondo te tra un italiano e un francese? La grande differenza, c'è la famosa frase di Jean Cocteau che diceva che gli italiani sono dei francesi felici, ma penso che adesso sono più i punti di contatto, più felici, che penso che c'è una depressione italiana, c'è una depressione che non dice il suo nome, ma trovo che gli italiani sono più tristi dei francesi adesso, perché non c'è un disegno globale, non c'è una strada, non c'è un progetto comune, diciamo. Grazie questo mille, Filippo. Penso che manca l'Italia. Ciao. Grazie mille, au revoir. Certo che mandate messaggi sugli accenti con estrema simpatia, ma noi ne sbagliamo in continuazione. Grandissimo questo corrispondente, Philippe Ridé, scrive su Le Monde. Mi è stato a proposito fatto notare, si dice le e non le, come ho detto io, cadendo grossolanamente sulla pronuncia. Scrive su Le Monde e parla dell'Italia. Cercatevi gli articoli, valgono la pena, anche in traduzione alcuni sono disponibili, proprio per la sagacia con cui analizza vizi e virtù. Torneremo lunedì per l'ultima settimana con gli ultimi 5 corrispondenti dall'estero. Ci sono arrivate segnalazioni, richieste di paesi in particolare dai quali si vuole sentire un giudizio, un'analisi, una lettura. Continuate a mandarcele. Buongiorno, Irene Zerbini al microfono. I numeri per partecipare al 349-238-6666 con un sms. E il numero verde 800-24-00-24. Manca la domanda. Avete già mandato tantissime risposte. Comunque la riproponiamo. Avremmo bisogno di un limite d'età anche per la classe politica? Il 60% dei politici italiani ha più di 70 anni, secondo il rapporto LUIS 2008 sulla classe dirigente. Viceversa, lo statunitense Barack Obama è eletto a 47 anni, David Cameron è stato eletto a 44, Zapatero a 44, e potremmo citarne tante altre. Insomma, in genere negli altri paesi si termina la carriera politica da 50 anni o poco più. In Italia dunque dovremmo mettere un tetto? Votate sì o no sul sito www.radio24.it. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E ci ritroviamo insieme per parlare di un personaggio segnato dalle rughe che s'aggira tra i palazzi del potere. Non ha un nome, benché in gioventù ebbe un nome altisonante, non ha una carica, o almeno non così solenne come quelle che rivestì in passato, e non ha più lustro né energie per lustrare la sua targa d'ottone. Tuttavia, non si contenta affatto dei ricordi, traffica, cospira, confabula, almanacca. In conclusione, non esce mai di scena. Questo personaggio, secondo Michele Ainis, è uno splendido editoriale della Stampa di ieri, è Lex. Tregge più, PCPC, tregge più, DCDC, tregge più, PCPC, Blibri, DCDC, DCDC, Cazzaniga, non tregge più, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Tripla Causio, che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, tregge più, Gianni Brera. E questa è un po' l'atmosfera che permea questo articolo. Buongiorno, benvenuti i miei ospiti. Michele Ainis, comincerei da lei, ho citato il suo editoriale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E c'è una differenza, secondo lei, in questo comportamento, così, questo attaccamento alla poltrona, questa mancanza di ricambio generazionale, perché poi si è partiti dall'età quando non è esattamente l'età il problema. È la mancanza di idee nuove, innovazione, di ricambio letteralmente. C'è una differenza secondo lei tra destra e sinistra? No, direi proprio di no. C'è una, diciamo, una crisi di mobilità sociale, di dinamismo, che poi alla fine diventa anche di efficienza. Infatti noi come paese stiamo perdendo posizioni in tutte le classifiche internazionali, ma questa crisi riguarda l'intero sistema paese. Lei citava il rapporto LUIS, ma per esempio dei dati della Unioncamere attestano che anche nelle imprese la percentuale di ultra settantenni negli ultimi anni è cresciuta quasi al 7%, mentre la popolazione di riferimento diminuiva. Insomma, per i giovani c'è sempre meno spazio, però non è soltanto una questione di viva la giovinezza, ma è una questione di facce nuove, forze fresche, idee giovani. Chiaro, questo va precisato, non è una questione di razzismo, diciamo così, anagrafico, è proprio una questione di innesti, di novità. Chiaramente questi possono arrivare, venire agevolati, e in questi giorni si discute spesso il governo istituzionale, lo si pensa soprattutto con un compito, con una riforma elettorale. Secondo lei in che direzione dovrebbe andare? Ma certamente la legge elettorale che abbiamo non ci aiuta, perché santifica il sistema della cooptazione, toglie a noi cittadini il potere di decidere gli eletti sono decisi in realtà dai signori di partito e i signori di partito promuovono i loro maggiordomi, funziona così. Quindi rimane bloccata la politica, la casta, si diceva qualche anno fa. Non è soltanto però, a mio giudizio, una questione di sistema elettorale. Ci sarebbe bisogno nel nostro sistema istituzionale di una iniezione di democrazia diretta, dare cioè la possibilità ai cittadini e di controllare l'operato degli eletti, per esempio attraverso un istituto che nell'esperienza degli Stati Uniti è molto antico, si chiama recall, cioè la revoca anticipata dell'eletto che abbia tradito le proprie promesse elettorali, e attraverso dei referendum propositivi, cioè che consentano ai cittadini, anziché di subire iniziative legislative, di farsene parte attiva. Ci sarebbe bisogno, io credo, anche di abbassare il numero di firme che occorre per potersi presentare alle elezioni. Alla Camera arrivano a 4.500 firme, questo toglie alle forze non strutturate, non troppo organizzate la possibilità di contribuire. E c'è però la sensazione che quando appunto ci si allontana da Roma, o meglio dal Parlamento, non è che poi in Italia manchino questi giovani leader. Sembra che ci siano forze, talento, senso civico, voglia di impegnarsi, ma ci sia questo muro senza breccia questa volta intorno a Roma, perché in altri appuntamenti elettorali, non quelli delle politiche, i giovani passano, si candidano e vengono votati. Voglio dare il mio buongiorno a Lara Comi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Benvenuta Lara, deputata al Parlamento europeo. Quanti anni ha lei? 27. E quando è stata eletta quanti ne aveva? 26, l'anno scorso nel 2009. Quante preferenze ha ottenuto? 63.000. circa. 63.000 preferenze per rappresentare Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Ora, sì, lei è deputata per il Popolo della Libertà e rappresenta l'Italia, viaggia molto naturalmente, soprattutto qual è la destinazione? Ma principalmente Bruxelles e Strasburgo sono le nostre mete costanti. Abbiamo un impegno molto importante, tutte le settimane siamo chiamati a Bruxelles, in particolar modo 3 settimane al mese e 1 settimana a Strasburgo. Lei rimane, immagino, anche da quelle parti uno dei volti più giovani? Sì, sono la deputata più giovane a livello italiano, e a livello europeo siamo 1 o 2 ragazze, e qui ancora siamo comunque un aspetto femminile, le più giovani. Siamo questo sotto i 30 anni, ma se andiamo ad analizzare invece le fila dei trentenni, dai 30 ai 40 anni, quanti ce ne sono? Una buona percentuale, soprattutto dai paesi del nord. Paesi come la Svezia hanno un gran numero di deputati, la Danimarca, l'Olanda, hanno sicuramente puntato su dei giovani che sono appunto tra i 30 e i 40 anni. Fanno un altro lavoro o sono parlamentari a tempo pieno i suoi colleghi? Ma generalmente fanno solo questo come professione, perché è importante dire che noi facciamo gli europarlamentari e non siamo europarlamentari, in quanto è proprio un lavoro, è un lavoro a tempo pieno che richiede un impegno costante e una presenza costante. Quindi noi abbiamo anche dei criteri, come dicevano prima, noi siamo assolutamente controllati sull'operato. Si parlava di responsabilità verso l'elettore, in che modo si concretizza per voi? Allora, la responsabilità come sistema italiano, perché ci sono sistemi elettorali diversi per i vari paesi, noi abbiamo un sistema a preferenze su un territorio che secondo me forse è troppo ampio, perché dobbiamo... Perché lei rappresenta infatti, mi sembra di capire, Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quindi esatto, un distretto elettorale di quanti votanti più o meno? Sono... possiamo dire un quarto della popolazione italiana, più incredibile, o meno. E pensate, sì, che invece a Montecitorio viceversa c'è un parlamentare ogni 60.000 abitanti, quando nel resto d'Europa in genere è uno ogni 300.000 nei parlamenti nazionali. Siamo 72 deputati. Voi siete 72 a rappresentare l'Italia? Esattamente, sì, e con la Germania che è al primo posto ne ha 99. Mentre invece a Roma ne abbiamo 945. Sì. Si è fatto un gran parlare degli stipendi d'oro della politica in occasione del taglio dei 1.000 euro al mese dagli emolumenti. Per un contributo concreto al risparmio si dovrebbe procedere a una bella sforbiciata. Comunque, lei ha 27 anni, si è candidata. Quando ha cominciato la sua attività politica? Ma quando avevo 19 anni, questo è anche un'esperienza che altri miei colleghi stranieri hanno, nel senso che è raro che un ragazzo danese o un ragazzo olandese non abbia avuto esperienze politiche precedenti. Io ho una mia collega che ha la mia stessa età, che è stata coordinatore nazionale dei giovani verdi del suo paese. Voglio presentare un altro ospite, vecchio rispetto a lei, mi concederà questo aggettivo senza offendersi, Michele Orlando, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, anche lei è un rappresentante politico, è il sindaco di Roncadelle, in provincia di Brescia. Esatto. Quanti anni ha? 35, quindi è vero che sono vecchio rispetto rispetto alla combi. Eppure anche lei rappresenta queste forze giovani, questi giovani leader che ci sono quando non siamo di fronte a liste bloccate, quando il leader poi bisogna sceglierlo sul territorio. Che percentuale ha preso lei? Quando è stato eletto aveva 30 anni, ricordiamolo innanzitutto. Era l'anno dei 30 anni, ma ne avevo ancora 29. Quindi. Va bene, adesso non facciamo la corsa alla gioventù. Che percentuale di preferenze ha collezionato? Beh, io sono stato rinnovato da alcuni mesi con quasi il 63%, quindi direi un buon risultato. Quasi il, scusi? 63%. Quindi si è conquistato la fiducia, non c'è diffidenza poi verso un volto giovane quando ci si candida, perché si potrebbe pensare anche questo analizzando la situazione anagrafica del Parlamento italiano, che forse l'italiano cerca nel, così, non vorrei dire anziano, ma nella persona più che matura la garanzia d'esperienza. Oddio, se guardiamo il mio risultato, chiaramente direi di no, perché in effetti è stata premiata una lista che non solo aveva come candidato sindaco una persona giovane, ma che era piena di giovani, quindi direi di no. Però se poi andiamo un po', scaviamo un po' più a fondo, vediamo che come tutte le società, penso anche quella italiana e quindi anche quella lombarda, bresciana e quella del paese in cui vivo, Roncadelle, è un po' più complicata rispetto alle apparenze, nel senso che prima quando lei elencava l'età di molti leader mondiali mi veniva da sorridere, perché ecco, aggiungerei Clinton, che è stato eletto quando nella metà degli anni 90 divenne presidente a 42 anni, ecco. Io ne ho 35, sono sindaco al secondo mandato, ma vi assicuro che non mancano perplessità in paese, nel senso che molti mi ritengono troppo giovane, così come ritengono troppo giovane una giunta come la mia che ha un'età media di 40-41. O Balotelli per la nazionale, scusi se mi riallaccio allo sport nazionale, perché c'è questa tendenza a tenere i giovani, a far gavetta finché verrà il loro turno, non solo, come ci ricordava Michele Ainis, in politica, ma anche in altri ambiti. Penso alle aziende, penso alla situazione terribile dei laureati italiani che altrove vengono considerati una risorsa e pescati così ancora prima che finiscano il corso di studi, e qui tante volte vengono fatti lavorare a 400-500 euro al mese senza sfruttare appieno le loro potenzialità di innovazione. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? E allora nel nostro sondaggio si può votare solo sì o no, anche se poi in effetti si può discutere a lungo di alcune zone grigie. I risultati: servirebbe un limite d'età alla politica secondo l'85% di quelli che hanno votato fino a questo punto. www.radio24.it è il sito dove farlo per telefonare 800 24 00 24 e per i messaggi sms 349 238 6666. Stavamo parlando con il sindaco di Roncadelle della mentalità che può portare a scegliere o meno un giovane, e quanto a Lara Comi ci sono dei messaggi così piuttosto denigratori, come se questa giovane parlamentare fosse stata eletta perché per le sue caratteristiche fisiche, perché è una bella ragazza, le farà anche piacere il complimento, ma è ancora una volta la tendenza malefica di fare di tutta l'erba un fascio. Lara Comi è del Popolo della Libertà, Michele Orlando e del PD non li abbiamo invitati per le loro appartenenze ma per le loro esperienze. Bene, 63.158 preferenze per il Parlamento europeo non sono facili da raggiungere, pure a volte si sente questa cappa del giudizio anche fisico. Onorevole Comi. Sì, assolutamente. Diciamo che la campagna elettorale del 2009 è stata è stata anche un elemento da parte della sinistra denigratore nei confronti di ragazze che potevano essere candidate. Io più volte ho ripetuto che mi sono laureata con lode prima all'Università Cattolica e poi in Bocconi, non ho mai fatto televisione, non sono una velina, ho fatto esperienze di partito da quando avevo 19 anni, con la cosiddetta gavetta, se così possiamo definirla. Certo, però anche lei capisce che certe malignità sono alimentate non solo così dalla miseria di noi esseri umani, ma anche da certe esperienze e da certe tante liste cooptate che hanno portato delle facce a occupare cariche che forse non si sarebbero aggiudicate se fossero andate sotto lo scrutinio. Ma vede, io di questo parlo del mio caso, nel senso che il volto nuovo, tra virgolette, comunque un volto giovane, è stato gradito, ma penso che sia anche legato alla persona, perché a volte avere persone con più esperienza, quindi più anziane, è utile anche per noi giovani per poter imparare meglio. Quello che manca alla politica italiana è un equilibrio tra persone che certo, possono certo, essere perché persone d'esperienza sono premiate anche in altri sistemi, ma qui c'è una sorta d'abuso che si perpetua sempre. Abbiamo parlato d'età, andiamo a sentire allora anche il più giovane tra gli eletti in Italia. Immunità parlamentare, tre che più, abbassale. Il numero 5 sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire. Eccolo che arriva. Certo. Disponibile al confronto. Nella misura in si chiama Nicola Chionetti, è forse un volto oscuro, però secondo i dati anagrafici del Ministero dell'Interno è il più giovane eletto sul territorio italiano. Sono Nicola Chionetti, sindaco di Dogliano, in provincia di Cuneo. Sono anche il sindaco più giovane d'Italia in carica. Beh, questo per me è un onore, anzi il doppio onore, quello di essere sindaco del mio amato paese e quello anche di essere più giovane. È una casualità, non è un merito, però sono felice di questo, perché proprio nelle amministrazioni, soprattutto in quelle medio piccole, i giovani hanno più possibilità di emergere non perché dunque a questo tema che torna, la possibilità di emergere per un volto nuovo. Lui è il sindaco di una lista civica. Lei, Ainis, prima, professore, parlava del sistema statunitense, parlava della responsabilità verso l'elettore, è data anche dal fatto che c'è il controllo del territorio, cioè non ci si può candidare dove non si risiede. In Italia è così? No, in Italia non è così, anzi noi abbiamo una delle nostre vergogne, è il fatto delle pluricandidature che poi portano a delle plurielezioni, cioè i leader delle varie formazioni politiche si candidano in tutti i collegi o quasi, poi decidono una volta plurieletti dove andare, la loro decisione a cascata provoca l'elezione di quello o la trombatura di quell'altro. Ma no, come però, può una maggioranza, le chiedo questo, Ainis, perché ovviamente questo è uno spunto che andrebbe inserito in una riforma elettorale, come può una maggioranza approvare una legge che di fatto la decapiterebbe? Ecco, questa è una bella domanda. È un po' il paradosso delle riforme che i costituzionalisti conoscono bene, cioè un sistema ha bisogno di riforme quando è bloccato, quindi tanto più ne ha bisogno quanto più ne è bloccato, ma se è bloccato è incapace a fare la riforma di se stesso. Quindi come se ne esce? Come se ne esce? Referendum? Come si fa? Ma l'ultimo referendum elettorale poi ha fatto il vuoto di elettori. Io credo che però ci sia, questo va un po' precisato perché abbiamo parlato di gioventù, ma ripeto, non si tratta di cantare 80 anni dopo, giovinezza, primavera di bellezza. C'è bisogno di forze fresche, c'è bisogno di mettere un freno ai tanti professionisti della politica che poi si riproducono, stanno sempre lì, magari cambiano sigla, ma insomma la faccia non possono cambiarla. E questo credo che sia un sentimento diffuso. Io ieri ho passato la giornata a rispondere mail e non ho trovato nessuna negativa su questa, sono tutti d'accordo, non se ne può proprio più, cioè di una oligarchia politica. Cioè lei avverte questa voglia di cambiamento? Io penso di sì. Ma questa distanza dunque tra queste rizzesse di palazzo, tra il sentire generale e queste elite arroccate in Parlamento, potrebbe portare a un incremento dell'astensionismo nel caso si andasse a votare? Io penso assolutamente sì, a meno che non intervengano delle formazioni fresche. Probabilmente c'è anche bisogno di superare destra-sinistra, non so più. delle facce fresche. Una faccia può essere fresca a 50 anni e può essere vecchia a 40 se da 20 anni è in circolo in politica. La politica dovrebbe essere una parentesi nella vita di ciascuno, un servizio, un'esperienza anche individuale. Non può essere il mestiere che ti dà da cantare, perciò devi sempre andarti a cercare una nuova poltrona e quindi sei ex, per definizione, sei pluriex. E quindi allora, un'altra volta il riferimento è ad altri modelli dove appunto terminata la parentesi politica in cui si è contribuito al bene dello Stato con le proprie convinzioni, con le proprie passioni, si torna alla propria attività e non si cumulano insieme i redditi da due attività mentre si è in Parlamento. Questa è un'altra stortura del nostro sistema, Ainis. Sì, sì, assolutamente sì. Noi abbiamo un conflitto di interessi maiuscolo di cui tutti parlano o comunque insomma ci abitiamo su questo conflitto da molti anni, ma in realtà l'Italia è piena di conflitti di interesse sanzionati anche da norme. Ci sono giudici che dovrebbero controllare il governo ma nominati dal governo. Questo succede per il Consiglio di Stato o per la Corte dei Conti, perché la normativa vigente dà al governo il potere di nominare una certa quota di questi consiglieri di Stato o della Corte dei Conti, ma insomma non finiremmo più. Sì. Ce ne sono tantissime di situazioni anomale, ce le segnalano anche i nostri ascoltatori che nominano anche naturalmente i baroni universitari, i primari d'ospedale. Volti nuovi, esigenza di cambiamento, si avverte un po' dappertutto. Eppure anche chi ci osserva da fuori pensa che abbiamo dei giovani italiani decisamente di talento nell'università e non solo, ma a volte a causa di questa mentalità diffusa stentano a credere in se stessi. Ce l'ha detto anche un corrispondente straniero, si chiama Patrick Agnew, lui è irlandese, è dell'Irish Times, e sentite cosa ci ha raccontato. La mia moglie insegna inglese alla LUS qui a Roma, anche a Tor Vergata. Conosce tante, ovviamente c'ha da fare con tanti studenti. Ogni tanto manda un studente suo in Irlanda per fare un stage, un'esperienza sia di lavoro sia per parlare inglese. Tramite i miei contatti io a un suo studente ho trovato una volta un lavoro da una ditta di grande importante ditta di avvocati di Dublino. Questi studenti erano rimasti molto stupiti dal fatto che era arrivato martedì, mercoledì c'era una riunione settimanale di tutto il consiglio della ditta e li hanno invitato a assistere a queste cose, e non solo, durante la riunione gli hanno chiesto il suo parere su certe cose che stavano discutendo dove prende certe decisioni. E lui, che era giovane italiano, arrivato un giorno anche a lui anche il suo parere per loro, e lui mi ha raccontato queste cose, è rimasto molto impressionato perché diceva che in Italia prima non avrei mai trovato lavoro in questa ditta, secondo non sarei mai stata invitata al consiglio, e terzo il mio parere nessuno l'avrebbe mai chiesto. Non sarebbe mai stato consultato in questi termini. Concludo con Michele Orlando, sindaco 35enne di Roncadelle. Come fare per avere più volti nuovi anche nella politica romana? Lei per esempio si candiderebbe alle politiche o preferisce la dimensione piccola? Oddio, io adesso vorrei finire la mia esperienza, anche perché credo che per chiunque abbia la passione politica un'esperienza amministrativa a contatto con i cittadini, quindi con i problemi quotidiani e con le relative soluzioni, sia assolutamente fondamentale. Dopodiché certo sarei ipocrita a dire che non mi interesserebbe. Io credo che, rispetto anche alla domanda che avete fatto agli ascoltatori, io sinceramente più che pretendere un limite di età mi accontenterei di mettere un limite nel numero dei mandati, perché già questo sarebbe sufficiente. Ottimo. a rinnovare. Un'altra indicazione concreta, ottimo, grazie. Purtroppo siamo in chiusura, vi ricordo che a 9 in punto Gianfranco Fabi parlerà delle forme della nuova finanza, quale economia e finanza uscirà da questa crisi, e dunque grazie a tutti voi che ci avete seguito e ai collaboratori ben più innovativi di me, anche perché più giovani, qui torniamo al tema, dunque grazie a Franco Piantanida e Peter Bescapè in regia, Irene Zerbini, l'appuntamento con me per lunedì mattina alle 7:15, grazie a Michele Ainis, Lara Comi e Michele Orlando.